Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera. In un accesso di conservatorismo abbiamo recuperato un'antica sigla. Meglio così, parleremo di minacce, parleremo di prima e dopo e novità, fra le novità, il diario etico-collitico.